come funziona il primo acquisto di cripto su Kraken? Immagina di essere a un food truck che non hai mai provato prima. Ordini subito il panino più farcito di tutti. Probabilmente scegli qualcosa di più semplice e poco costoso. Ecco cosa significa fare trading su Kraken. Scegli fra oltre 200 cripto e inizia con soli 10 euro. Facile, no? Vai su kraken.com e scopri il potere delle cripto. Non è un consiglio di investimento e il trading di cripto comporta il rischio di perdita. Protagonista della storia di oggi è un esempio perfetto di quanto a volte i soprannomi che ci vengono affibbiati non sono proprio i più calzanti. Lui per tutta la carriera da allenatore di calcio è stato chiamato Sergente, l'uomo dagli occhi di ghiaccio, il tedesco. Un uomo affascinante, capace di catturare subito l'attenzione delle donne grazie a un aspetto impeccabile, con dei modi da gentiluomo. E beh, oggi noi vi raccontiamo la storia di Gigi Radice, l'ultimo allenatore che è riuscito a cucire lo scudetto sulla maglia del Toro, del Torino. Il ginocchio salta in uno scontro con Tito Cucchiaroni della Sampdoria, nel match contro i blu cerchiati a San Siro. Prova a rientrare in campo, non riesce a stare in piedi. Fu un calvario. L'operazione, il gesso, un supplizio. E i miei compagni che vincevano la Coppa dei Campioni a Wembley. Ritorna in campo, ma in un altro scontro di gioco, stavolta con il suo compagno Trebbi, Gigi molla. È partito l'altro menisco. Gigi Radice nasce in Brianza, Cesano Maderno, è l'ultimo di tre figli, siamo nel 35, sta per arrivare la Seconda Guerra Mondiale. I suoi genitori sono le classiche persone semplici con la cultura per il lavoro. A Gigi però piace giocare a pallone, lo fa a livello giovanile nelle squadre della zona, della bassa Brianza, fino a quando non lo nota il Milan, entra nelle giovanili e diventa amico di un certo Giovanni Trapattoni da Cusano Milanino. Ogni giorno i due fanno assieme il tragitto fino a Milanello. Gigi dà un passaggio al Trap, che anche questa è un po' una leggenda, ma la dico col sorriso sulle labbra, che se può risparmiare lo fa più che volentieri. La sua carriera da calciatore è breve ma soddisfacente. Lui partecipa agli sciagurati mondiali del Cile con la maglia dell'Italia, poi però a 30 anni è costretto a lasciare il calcio, si rompe due volte il ginocchio, la seconda volta, peraltro, pur di tornare in campo, fa partire da sola la moglie, appena sposata, Nerina, una ragazza di Cesano Maderno che lui conosceva dai tempi dell'asilo, beh, la fa partire da sola per il viaggio di nozze a Lignano Sabbiadoro. Lui invece va a Roma, il viaggio sarà inutile, lei lo raggiungerà, lo assisterà, il ginocchio che si infetta, lui che non riuscirà mai a recuperare dall'infortunio, e assieme bisogna progettare il futuro per il dopo calcio. Lui sta per diventare assicuratore, poi arriva la classica telefonata che ti cambia la vita, l'offerta che non puoi rifiutare, allenare il Monza, e qua comincia tutta un'altra storia. Gigi Radice lascia il calcio, comincia la sua carriera da allenatore al Monza, Serie C, porta il Monza in B al primo colpo e lancia un paio di giovani che faranno strada. Uno è Claudio Sala, il poeta, e l'altro Luciano Castellini, il portiere detto il Giaguaro. Entrambi peraltro li ritroveremo più avanti nella nostra storia. Radice si fa subito la nomea di uomo tutto d'un pezzo, carattere deciso che difficilmente scende a compromessi. Forse anche la sua faccia in qualche modo determina il suo destino. Viene raccontato così da Francesco Bramardo e Gino Stripoli nel libro Gigi Radice, il calciatore, l'allenatore, l'uomo dagli occhi di ghiaccio. Il presidente del Monza, dopo una partita persa contro la Lazio per 3-0 e quella successiva pareggiata in casa contro il Modena per 1-1, si scaglia verbalmente contro i giocatori, entrando negli spogliatoi e annunciando multe salatissime per tutti per lo scarso rendimento. Gigi Radice non accetta quel provvedimento disciplinare contro i suoi ragazzi e dichiara che l'unico che deve essere multato è lui e non la squadra. A questo punto il comitato di reggenza del Monza si riunirà e darà il ben servito a Radice. Ma Radice si è fatto notare, non rimane fuori dal giro per troppo tempo, alla sua porta bussa il Treviso, poi di nuovo il Monza, poi il Cesena, e lui porta i bianconeri e i romagnoli in Serie A. È un'impresa che gli varrà una chiamata dalla Fiorentina, è il campionato nel quale vincerà la Lazio di Maestrelli, i Viola, la Viola anzi di Radice, chiude al sesto posto con una stagione di grandi imprese, vittorie contro Juve e Milan e grandi debacle come la sconfitta in casa contro il Foggia e il Cesena. Sesto posto che gli vale la conferma, la società gli affianca un uomo di grande esperienza, niente meno che Nereo Rocco in veste di direttore tecnico. Gigi non la prende bene, si sente declassato, lascia la Fiorentina per andare al Torino, mai scelta fu più azzeccata. Deve essere stato qualcosa di epidermico. Il tifoso del Torino è sanguigno, generoso, appassionato. Le mie figliole non si erano mai scaldate per nessuna delle squadre che io avevo allenato. Erano rimaste indifferenti. Ebbene, qui sono diventate immediatamente tifose sfegatate del Toro. Vanno allo stadio con la sciarpa granata. E non è finita. Mio figlio Ruggero, il più piccolo, ha già imparato a fare certi gesti a quelli della Juve. Non sta bene, lo so, ma che devo farci? Per quel che mi riguarda, io considero la Juve solo una delle tante antagoniste più forti. Una squadra che merita rispetto per il suo glorioso passato e per le sue strutture attuali. Un'avversaria che comunque si sente di più perché è della stessa città ed è più vicina, palpabile in qualsiasi momento. Radice arriva nel 75 sotto la Mole, in città si sta respirando aria di terrorismo, ci sono gli scioperi degli operai, sono anni complicati anche per il Toro che non ha più vinto lo scudetto dopo la tragedia di Superga. L'unico che ci è andato vicino è stato un amico di Gigi, Gustavo Giagnoni, ne abbiamo parlato, però rispetto all'allenatore sardo Radice porta delle importanti novità nell'ambiente, novità che ha rubato anche da altri sport. Con Gigi Radice arriva in Italia il calcio totale a tutto campo, all'olandese, fatto di pressing asfissiante ed uso del fuorigioco. Gigi era uno di quegli allenatori che andavano ad osservare anche altri sport e ne prendevano il meglio, tra questi il basket. Gigi era molto amico di Gamba, l'allenatore dell'Ignis Varese e poi della Nazionale. Radice andava a trovarlo al palazzetto dello sport e prendeva appunti sul pressing, sulla marcatura uomo contro uomo e li applicò al calcio. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are changing. L'impatto con giocatori magari non abituati a lavorare più di tanto non è facile, è allenamenti massacranti, mercoledì doppia seduta. Ciccio Graziani, uno dei simboli di quegli anni granata, ricorda così quei giorni. Lo soprannominammo il sergente di ferro perché lui fu attraverso questa sua volontà, questa sua testardaggine di non farci arenare anche nei momenti più difficili durante gli allenamenti, dove c'era da sgobbare, da sudare, da soffrire un po'. Se non trovavi delle motivazioni facevi fatica, invece lui attraverso queste motivazioni ci dava l'input per non arrenderci mai. È appena arrivato a Torino, Radice decide che si può fare a meno di alcuni giocatori che avevano vissuto anni positivi con la maglia granata. Bisogna rinnovare, impostare il futuro. Uno a cui rinuncia è Aldo Agropi, che chiuderà la carriera altrove. L'altro è Ferrini, il capitano storico del Torino, che diventa il vice di Radice. E Gigi porta anche altre novità. Intanto chiede a tutti i giocatori una quota per costruire la biblioteca della squadra. Secondo lui, se qualcuno scopre che in ritiro si può giocare a carte ma c'è anche dell'altro, tutto questo darà dei buoni risultati. E oltre a questo Radice porta anche nuovi concetti in campo, ce lo racconta Eraldo Pecci. Univa a questa educazione spartana, come si davano una volta, no? Il rispetto degli orari, il rispetto del lavoro, il rispetto della compagnia, del gruppo, a questa innovazione calcistica, perché Gigi per primo ha capito come si doveva aggredire a quei tempi gli avversari per mettere in difficoltà. È stato un mix determinante. Tra l'altro, quando sono arrivato mi diceva che avevo le braghette corte, poi mi diceva che avevo la fuava, e finché un giorno mi ha detto che forse sarei riuscito ad averle anche lunghe, per cui è stata una crescita che abbiamo fatto assieme. Al Torino, radice, capisce anche che i tempi sono cambiati, i calciatori non devono solo allenarsi in campo, devono fare gruppo tra di loro e una volta alla settimana lui permette ai giocatori di portare moglie e figli a cena con la squadra, insomma per cementare un gruppo, adesso lo fanno in tanti, ma fu Radice il primo, lui capisce, non so, l'importanza della preparazione atletica in montagna, al Philadelphia lui apre le porte ai tifosi e nelle sessioni di allenamento, insomma cura l'aspetto psicologico tanto quanto cura quello atletico, lo racconta anche il poeta Claudio Sala, chiamo poeta perché insomma era il suo soprannome, l'intervista è al Guerin Sportivo. Ritrovai Radice a Torino dopo che lo ebbi a Monza, lo trovai ancora più maturo, più convinto delle sue idee che lo portavano ad applicare nuovi metodi di allenamento e schemi nuovi. Lavorava molto sulle teste, diceva che la domenica c'era un solo risultato, la vittoria, e poi fece una cosa straordinaria. Pretese che la divisa del Toro fosse tutta granata, maglia, pantaloncini e calzettoni. Sono dettagli importantissimi, decisivi, in un ambiente eccezionale come quello del Torino. Radice non lascia nulla al caso, era convinto allora che le squadre lavorassero troppo poco e lui avrebbe voluto fare una doppia seduta al giorno, imponeva corsa, una marea di esercizi, il lavoro ha un senso per raggiungere una tenuta fisica che potesse permettere ai giocatori di andare a pressare la difesa avversaria e di metterla in difficoltà già a pochi metri dalla loro porta, è quello che fanno tutti oggi, uno dei principi del calcio totale, quello che permette al Torino di scrivere la storia. Il campionato 75-76 resta nella storia del calcio italiano. Partono bene Juve e Napoli, il Torino insegue a debita distanza, mantiene un buon ritmo, tutto cambia quando la Juve cade prima in casa del Cesena e poi perde il derby proprio contro il Toro. La squadra di Radice prende il volo grazie ai suoi gemelli del gol, Pulici e Graziani. Batte il Milan mentre la Juve perde a San Siro contro l'Inter e arriva al tanto agognato sorpasso. Domenica 16 maggio 76 è l'appuntamento con la storia, l'ultima di campionato. I granata ospitano il Cesena. Ceccarelli verso linea centrale del campo, ha recuperato. Attenzione, Neri, scusa. Proprio in questo momento l'arbitro decreta il segnale di chiusura dell'incontro. Torino campione d'Italia dopo 27 anni, un grande sogno si realizza, una grande impresa è stata portata così a termine. È terminato un campionato che ha davvero lesinato emozioni e sorprese anche in questa giornata finale. Il torneo ha avuto un sussulto e in un susseguirsi di azioni convulse, di finali convulse che abbiamo dettagliatamente informato nel corso di questa nostra trasmissione, ha offerto una chiusura davvero eccezionale. E qui accade l'imprevedibile, l'impronosticabile. Gigi Radice centra lo scudetto al primo tentativo sulla panchina del Torino, una gioia immensa. E pensate che lui, il tedesco, l'uomo dagli occhi di ghiaccio, non si lascia andare neanche in quell'occasione, perché a lui spiace avere pareggiato 1-1 la partita decisiva e voleva una vittoria nel giorno dello scudetto del suo Torino. Siete campioni d'Italia, io ho perso. Siete campioni d'Italia. Sì. Vabbè, ma però mi spiace così per questa partita, perché veramente ormai era sbloccata, ci siamo trovati così. Va bene, ma lascia bene, questo è solo un episodio. Mi piaceva di più così, perché era sbloccata su un episodio così proprio che non. Insomma, ecco, ma lasciamo perdere questa partita. Però a un certo punto è capitato così questo fatto che. D'accordo, ma lascia perdere questo fatto. Forse perché vediamo sempre di vincere, eccetera. Non dico che non siamo mai contenti, però insomma. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. Stiamo raccontando Gigi Radice, l'allenatore che a metà degli anni 70 riporta il Torino a vincere lo scudetto, il primo uomo che riesce in questa impresa dopo le straordinarie vittorie del grande Torino, dopo la tragedia del 49 di Superga, in realtà è anche per adesso l'ultimo che riesce in questa impresa. Prima di allora era stato un calciatore del Milan, aveva dovuto abbandonare troppo presto la carriera per un infortunio al ginocchio, è diventato papà per 3 volte con una compagna dei tempi dell'asilo, Nerina. A Torino lui trova la sua nuova consacrazione, vince il campionato con il suo calcio totale ispirato alla scuola olandese, insomma porta delle novità mai viste fino a quel momento nel calcio italiano. E far parte della Famiglia Granata del Toro vuol dire vivere sulla propria pelle gioie immense, grandi tragedie. Insomma, il Toro è una squadra particolare, non me ne vogliano gli altri, ma è la squadra più letteraria, più poetica del calcio italiano nel suo periodo a Torino. Peraltro questa sorta di maledizione si palesa nuovamente. A 37 anni si spegne Giorgio Ferrini, artefice di un Torino molto forte, il numero 8 Giorgio Ferrini, si spegne a 37 anni. Radice l'aveva voluto con sé come vice allenatore e qualche anno dopo lui è protagonista di una tragedia devastante che cambierà per sempre la sua vita. È martedì 17 aprile 1979. Sembrava una mattina come tante altre sull'autostrada dei fiori. L'allenatore Granata, insieme al suo caro amico Paolo Barison, che lavorava per il Torino in qualità di osservatore e collaboratore, erano andati a trovare nel weekend Mirko Ferretti, tecnico in seconda del Granata, per una brevissima vacanza a Mortola Superiore, al confine italo-francese. Sono circa le 10.30, quando un autotreno Fiat Iveco, guidato da Gino Longo, un ragazzo 27enne residente a Lonate Bozzolo, in provincia di Varese, partito da Gallarate in direzione Sanremo con un carico di vetture Opel, sbanda perdendo il controllo del mezzo, sfonda il guardrail e piomba come una valanga nella corsia opposta al senso di marcia. La bisarca si rovescia e prima di arrestarsi travolge 5 auto che stanno sopraggiungendo nel senso opposto di marcia. Prima un'Alfetta, poi una Fiat 128, la 130 guidata da Radice e successivamente un'altra Alfetta e un'altra 128. L'impatto con la 130 del tecnico Granata è devastante e terribile. L'automobile di Radice prende subito fuoco. Il tecnico Granata, nella violenta collisione, viene sbalzato dall'abitacolo. Allora non esistevano le cinture di sicurezza. Mentre per Paolo Barison, rimasto imprigionato nelle lamiere contorte, non c'è nulla da fare. Il suo corpo carbonizzato e irriconoscibile verrà trasportato all'obitorio di Andorra. Quando la polizia stradale arriva sul posto, trova nel raggio di 100 metri uomini e donne che piangono, sangue dappertutto, una scena raccapricciante. Radice lì disteso a terra, l'ambulanza lo porta di corsa all'ospedale d'Imperia, le sue condizioni sono disperate, Nerina è al suo capezzale per tutti i giorni successivi all'incidente. 2 giorni dopo i medici comunicano alla donna che Gigi si sta riprendendo quasi miracolosamente, il suo fisico, la sua forza lo stanno aiutando, quando riprende conoscenza è ancora debole, nessuno se la sente di raccontargli che cosa è successo a Barison. Lui continua a chiedere notizie dell'amico, scoprirà la verità solo dopo il trasferimento in una clinica di Torino. È un colpo molto duro perché Barison era per lui quasi un fratello. Il Torino nel frattempo è nelle mani di Mirko Ferretti, suo vice, che ogni giorno passa in clinica per parlare con Radice degli allenamenti, delle mosse tattiche in vista della partita di domenica. Gigi piano piano si rimette, parte con la squadra per il ritiro estivo a Chamonix, però ormai qualcosa si è rotto nel meccanismo del Toro e anche in lui. Ci ho ripensato più volte e non sono riuscito a togliermi quella grande amarezza. Pensavo ormai di essere in famiglia. Ci dicevamo tutti insieme che anche le eventuali intemperie le avremmo superate senza traumi, discutendone serenamente. E poi ai primi accenni di burrasca mi cacciano via e mi fanno sentire un allenatore qualunque. 5 anni di affettuosa collaborazione spazzati via, perché si erano perdute un paio di partite in più. E come sempre quando le cose vanno male nel calcio il primo che salta è l'allenatore. Radice saluta il Torino con il dolore nel cuore perché lui avrebbe voluto rimanere lì per tutta la carriera, gli piaceva la città, l'ambiente, aveva in mente di creare un'accademia del calcio come quelle che adesso ci sono in Europa, voleva imporre un modello di gioco comune dai bambini alla prima squadra, con ex giocatori del Toro a guidare questi bambini, a trasmettere lo spirito Granata. Insomma, sarebbe stato un progetto innovativo, molto grande, e poi molti lo hanno fatto anni dopo. Il suo sogno svanisce presto, non rimane troppo con le mani in mano, va a Bologna dove porta la squadra fino al 7° posto, la squadra che arriva con 5 punti di penalizzazione per il calcio scommesse, poi va al Milan, non entra in sintonia con il gruppo appena promosso dalla Serie B e allora passa dall'altra parte del naviglio, va all'Inter, e qui c'è il mio ricordo personale, perché io in quegli anni qualche volta mi andavo a allenare con l'Inter di Radice, essendo amico di Beccalossi, di molti giocatori del periodo, e c'era un allenamento che Radice faceva a tutti che correvano cantando Nuovo Swing, e questo insomma è un ricordo molto carino riguardo al sergente di ferro, che tanto di ferro non era. Poi anche Pellegrini cambia per lui, ancora il Toro, e qui lui sfiora un'altra impresa. Siamo a metà degli anni 80, il Torino richiama Gigi Radice, l'allenatore che 10 anni prima era riuscito nell'impresa di riportare lo scudetto sulle maglie dei Granata grazie al suo calcio totale, riprende in mano la squadra nel settembre dell'84 e chiude un campionato alla grande. Un secondo posto, una grossa... un posto mi sembra più che meritato, perché tutto l'anno ci siamo mantenuti in queste posizioni e questo mi sembra che sia stato un giusto premio alla squadra. Non hai un po' di rimpianto? Forse qualcosa che avete perso per strada ma poteva portarvi a questo, no, a questo scudetto? No, io devo riconoscere giusto in questo momento che anche noi abbiamo raggiunto una posizione così prestigiosa di dare meriti ancora veramente al Verona, che si è meritato di vincere con il gioco e con il punteggio. Lui ha una squadra che non neanche lontanamente è paragonabile al Torino campione d'Italia del 76, insomma il secondo posto dell'85, sa quasi ancora di più di leggenda, vincerà il Verona di Bagnoli quel campionato, insomma ogni tanto in quegli anni in Italia poteva capitare che Davide battesse Golia, che la passione avesse la meglio sul potere, e il secondo posto è un biglietto da visita fantastico per Radice, che inizia il secondo anno in Granata, poi viene mandato via un'altra volta, va alla Roma, poi va alla Fiorentina di Cecchigori, e qui ha più di una discussione, la leggenda racconta di una presunta simpatia nei suoi confronti da parte della moglie del presidente Rita Rusis, ma probabilmente stiamo parlando di leggende. Di fatto c'è che Gigi, nonostante gli anni, rimane un uomo affascinante, attraente. Dopo l'esperienza di Firenze c'è un'altra avventura particolare da vivere con un'altra squadra particolare che rappresenta una comunità. Si prende l'aereo e si va in Sardegna, a Cagliari, per ricominciare. Il Falco. Il Falco. Il Falco. E il Gabbiano. Agli inizi degli anni 90 è il campionato italiano il più bello del mondo, così si dice, ma così è. C'è il Milan degli olandesi, c'è il Napoli di Maradona, c'è l'Inter dei tedeschi, poi c'è l'Atalanta di Mondonico, c'è Zico e l'Udinese, ci sono le genovesi, Scoglio e Boscov, e Radice riparte dalla Sardegna, dalla panchina del Cagliari, viene chiamato dal presidente Cellino. Radice e Cellino, due galli nello stesso pollaio, lo scontro è inevitabile. Ci sono stati due corsivi in questi giorni sui principali quotidiani sportivi nazionali che non sono stati sicuramente gentili con Radice e il suo futuro. Sì, sì, difatti gli abbiamo parlato anche prima, direi che un conto è dire così, dare dei giudizi su una persona senza conoscerlo, perché da noi si usa molto essere quelli che dicono gli altri, ma a un certo punto poi ci vogliono anche, bisogna reagire, bisogna farsi conoscere per quello che uno è. Io non è che voglio assolutamente, voglio che sia, che io sia valutato per quello che sono. Non è che vengo valutato considerando l'età, considerando gli anni che uno fa questa professione. Beh, è chiaro che, infatti, quando non so, un presidente che solamente un mese e mezzo fa mi ha ingaggiato, che abbiamo parlato, eccetera, insomma, no, non credo che abbia fatto, che abbia ingaggiato un rimbambito, le pare? E l'esonero arriva in diretta TV. Massimo Cellino scarica Radice al processo di Biscardi. È un'umiliazione per un allenatore che ha più di 500 panchine alle spalle. E Gigi capisce che i tempi sono cambiati, rimane senza squadra e torna in quella che diventa la sua città adottiva, Monza. Trascina ancora i Brianzoli dalla C alla B, poi un altro esonero, l'addio alla panchina. Siamo nel 1998, il mondo del calcio si dimentica di uno dei suoi più grandi protagonisti e Gigi Radice cade nell'oblio, si ammala, e l'oblio diventa anche il compagno dei suoi ultimi anni. Inizialmente sono solo dei vuoti di memoria, poi la situazione si aggrava, lo racconta anche Mirko Ferretti, il suo storico vice. Sono andato a trovarlo a Monza, nel centro in cui risiede adesso, a poche decine di metri dalla sua abitazione. Ci siamo seduti e gli ho detto: «Allora, mister, quando convochiamo i ragazzi? Domenica cosa facciamo?» Lui non ha risposto, però poi a un certo punto mi ha guardato fisso negli occhi. Mi ha preso per un braccio e mi ha portato in un'altra stanza dove c'era un divano. Ci siamo seduti e siamo rimasti lì a guardarci negli occhi. Una situazione che avevamo sempre vissuto nel nostro passato di allenatore, vice allenatore ed amico. Quando poi ho visto la psicologa del centro, le ho chiesto se l'avermi preso per un braccio voleva dire che mi avesse riconosciuto. E lei mi ha detto che poteva essere di sì. Ero il suo amico. Ero davvero felicissimo. Gigi Radice ha vissuto gli ultimi anni della sua vita in clinica a lottare contro un male terribile, invincibile, il morbo di Alzheimer. Il figlio Ruggero, intervistato nel 2015 dal Giornale, racconta così quello che è successo a suo padre. La sua malattia è iniziata un decennio fa, ma forse avevamo sottovalutato qualche piccola amnesia. Da 5 anni si è aggravata. Dopo l'anestesia per l'intervento a un'anca, dopo il quale è tornato a muoversi benissimo. Ma il suo problema è la mente. È come se fosse andata in tilt. Sapevamo che la situazione sarebbe peggiorata, ma speravamo non diventasse tanto drammatica. Ora è stazionaria. Il mondo del calcio italiano ci aveva lasciati nell'indifferenza totale. Fino al 2010 avremmo anche gradito le visite. Ma ora papà riconosce a fatica solo i familiari, per cui non è più necessario andarlo a trovare. Eravamo abbastanza delusi per il comportamento di chi ci stava intorno. Gli sono rimasti alcuni amici intimi, per il resto sono pochi. Qualche ex giocatore granata si fa sempre vivo, assieme ad amici di Torino. Purtroppo papà non è più quel che era, anche per questo è stato dimenticato. Il 7 dicembre 2018, a 83 anni, finisce la parabola terrena di Gigi Radice. La malattia ha avuto la meglio su di lui. Il sergente di ferro non c'è più, rimane nei cuori di chi l'ha conosciuto bene, come per esempio il giaguaro Castellini, chi lo ha voluto ricordare nel giorno del suo funerale, come l'attuale presidente del Torino Urbano Cairo. Si chiude una pagina della nostra vita da toro. Radice direi che ha cambiato mentalità ai tempi, è stato un innovatore. Non si è sentito quel che ha detto il figlio, perché c'è stato un applauso, ma lui quando ha detto chiudo io adesso, e ha detto: dico quel che direbbe mio papà, poche chiacchiere e pedalare. Con te se ne vanno i nostri migliori anni della nostra vita. Con queste parole Claudio Sala, un altro dei simboli del Torino campione d'Italia del 76, ha voluto salutare Gigi Radice il giorno del suo funerale, il 10 dicembre del 2018. È stato un anno terribile per i tifosi del Toro. Se ne erano già andati altri due simboli, Gustavo Giagnoni, Emiliano Mondonico. Radice non se lo dimenticherà nessuno. Il sergente di ferro rimane per sempre, resterà per sempre nei cuori dei suoi calciatori e dei suoi tifosi. E la sua storia e tutte le altre che vi raccontiamo la potete riascoltare in podcast sul sito di Radio 24. Per tutto il resto sapete dove trovarmi. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.